storie de no altri. Tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari e Antonio Ceccato. A voi tutti, cari ascoltatori, un saluto affettuoso da parte di Gesi e di Antonio. Oh Antonio, stasera abbiamo una personalità, abbiamo questa volta un ospite non virtuale ma bensì qui in carne ed ossa, ed abbiamo il dottor Italo Facchinello. E dottor Italo Facchinello è poeta, scrive romanzi, scrive racconti, scrive poesie, insomma un po' di, poi sentirete poi dalla sua viva voce che cosa fa. Intanto lo salutiamo, buonasera dottore. Buonasera dottor Italo. Buonasera a voi. Buonasera. Allora, benvenuto in questa trasmissione. Grazie. Poi ci racconterà un pochino della sua vita, ci racconterà che cosa ha fatto nella vita, cioè per vivere, insomma, ecco. Sì. E poi ci leggeremo qualche saggio delle sue opere, qualche poesia, qualche... Va bene? Sì. Ok, allora cosa facciamo? Tu, Antonio, a te la parola. Grazie, allora un cordiale benvenuto alle amiche e gli amici vicini e lontani di Blu Radio Veneto per questo percorso ideale nei sentieri della memoria. Ricordiamo il nostro indirizzo internet bluradioveneto.it e il nostro numero di telefono per SMS, consigli, proposte, suggerimenti e altro, 346 26 20 033. È anche possibile naturalmente per i nostri amici tecnologici l'ascolto in streaming e il relativo download della trasmissione, senza dimenticare un saluto al nostro regista naturalmente. Come sempre. Allora, prima di cominciare, di addentrarci nel programma vero e proprio, ascoltiamo la prima canzone in programma, che è del 1982, è cantata da Christian e si dice così che sia una delle più belle canzoni degli anni 80, e si intitola Un'altra vita, un altro amore, e canta Christian. Quante volte t'avrò detto, ritornando in piena notte, giù l'amore non ci provo più. Ogni volta come un tarlo risaliva quella febbre e tornava ancora a farlo io. Vagabondo per errore dividevo la mia vita alternando amori senza meta. Da stanotte credi amore, non farò più quell'errore. Ho deciso che io cambierò. Un'altra vita, un altro amore ti darò. Un'altra storia, un altro uomo inventerò. E dopo ti dovrai stupire di come a volte può cambiare un uomo se un amore vale. Un'altra vita, un altro giorno ci sarà. Un altro sole per la nostra eternità, perché stavolta ho deciso e mi si leggerà sul viso che se la mia serenità. Se ripensa a quelle sere che ho bruciato per un niente, inseguendo la felicità, consumando le mie notti, mi sfuggiva dalla mente che eri tu la mia serenità. Ma se un uomo può sbagliare, si può anche perdonare, se ritorna con in mano un fiore. Da stanotte credi amore, non farò più quell'errore. Ho deciso che io cambierò. Un'altra vita, un altro amore ti darò. Un'altra storia, un altro uomo inventerò. E dopo ti dovrai stupire di come a volte può cambiare un uomo se un amore vale. Un'altra vita, un altro giorno ci sarà. Ecco, prima di dare la parola al nostro ospite, Antonio, vuoi leggere così un po' un riassunto delle opere che ha scritto? Certo, allora, le opere in prosa sono Dietro il carro del 69, Le stagioni del vento dell'85, Il verso del cimblone del 91, Un paese che ritorna del 92, I paesi perduti del 93, Profili con l'ombra del 2001 e ultime opere in apparizione, La contrada dei ladri, La vita veneta nei borghi rurali e La sfida delle fionde. Mentre in versi ha pubblicato Grazie dei figli del 76, Campi lontani dell'81 e Al mio paese del 99. Benissimo, allora adesso diamo la parola al nostro ospite. Caro dottore, ci racconta un pochino in sintesi della sua vita. La mia vita è fatta di povertà intanto, perché sono nato nel paese più povero della provincia di Treviso, che era allora Loria, e la mia famiglia era tra le più povere del paese. Mio papà faceva il mediatore nel commercio del bestiame, quindi prendeva una lira, due lire ogni contratto che faceva, si pativa la fame insomma. So che quando andavo via la mattina ci lasciava due lire per mangiare, due franchi di nickel. Sì, mi ricordo. Quando andava bene ci lasciava una colombina, 5 lire. In quel giorno mia mamma diceva oggi ne avanzo. E quando non c'erano nemmeno i due franchi andavo in prestito da mia nonna. Andavo in prestito, poi mio papà in qualche maniera ripianava, perché abbiamo sempre pagato tutti i debiti. E comunque in quelle condizioni, dopo la quinta elementare, mia mamma ha voluto farmi studiare, perché al mio paese, in quel tempo lì, andavano tutti all'estero, quelli che non avevano terra. C'era molta immigrazione, vero? Quelli che della mia classe, eravamo alla visita paramilitare, una quarantina, saremmo rimasti in paese 3-4, gli altri sono tutti all'estero, in Canada, in Australia, eccetera. Un'emorragia completa. Io sono stato l'unico povero del paese che ha studiato. Perché studiavano allora soltanto i figli del medico e i figli del farmacista, esatto, sì. I figli di una famiglia di signori, che era l'unica famiglia di possidenti di terre allora, che erano i Serena, da cui viene Don Bruno Serena, che voi conoscete probabilmente perché è stato responsabile della musica sacra in diocesi, certo, certo. E io sono stato l'unico, perché mia mamma non si era mai rassegnata a mandarmi all'estero. Dice ho questo solo, insomma, facendo sforzi, dice, studiarmi. Mio papà mi ha detto proviamo un anno, se vieni promosso bene, se no vai in Piemonte a lavorare. Dovete sapere che quelli che andavano in Piemonte facevano una vita da cani, andavano da contadini, lavoravano 15-16 ore al giorno, venivano a casa magri, impiccati, con le mani come suole di scarpe, diciamo vicini alla schiavitù. Ecco, sono stato promosso e poi sono andato avanti anno per anno senza sapere dove sarei andato a finire, così ho tirato avanti. Sono arrivato in liceo, ho cominciato a fare ripetizioni, quindi a guadagnarmi qualcosa, a pagarmi le spese, perlomeno all'università ho fatto la stessa cosa. Fatto sta che ho finito gli studi, mi sono arrivato in legge e il primo buco che ho trovato è stato l'ho preso, ed sono stato fortunato, perché sono entrato all'Istituto di Ricovero di Treviso come vice direttore, poi sono diventato direttore, sono stato lì 38 anni. Ho lavorato un'intera vita lavorativa. Diciamo. Sono stato fino al 92, dal 92 sono in pensione. Ho cominciato a scrivere un po' di più, perché ho cominciato prima a scrivere, prima di andare in pensione, ma dopo che sono stato pensionato ho avuto più tempo. Sì. Purtroppo mi è mancata la moglie poco tempo fa, quasi un anno fa. Ho due figli, un architetto e una insegnante di lettere, tre nipoti, tutto qua, questa è la mia vita. Una vita ricca e piena. Ricca e piena. Poi si sente anche dei suoi scritti. Io a questo proposito volevo, se mi permettete, leggere proprio una poesia al mio paese. Sì, se volete la leggo io. Ah, come vuole. Quale volete che vi legga? No, io volevo leggere al mio paese questa qui che ho sotto mano. Al mio paese proprio non c'era? Sì, vuole che la legga io o la legge lei? La leggo pure io. Beh. È un po' in sintesi la definizione della povertà del paese. Sì, difatti. Al mio paese il popolo non c'era, quello col mensile. I più si viveva di stenti e tanti di carità. Da male chi aveva si mangiava tutto, e solo dopo, nei casi gravi di ospedale, subentrava l'elenco dei poveri. I ricchi lavoravano un poca di terra, capitalisti non ce n'era, o forse uno che in casa aveva poltrone e la radio. Ecco, avere il poltrone e la radio era una rarità, era considerato un segno di lusso. Allora io leggerei La terra del mio paese e poi Antonio magari puoi leggere la lettera a mia madre? Va bene. Allora io leggo la terra del mio paese. La terra del mio paese conosce il passo affaticato e sente da lontano il profumo del pane. La terra del mio paese mille volte ho toccato palmo a palmo. A lungo ho parlato con l'erbe nei cigli dei fossi, con spagne e soturchi, con loro ho sognato in cammino dentro il respiro dell'alba. Dai campi del corno e dei runchi, come dal grembo della riva, guardo il mondo stupito e ancora aspetto si avveri l'antica speranza. Lettera alla mamma. Come saprai, la casa è finita. È come la prima che abbiamo sognato per anni. La casa in via Balbi, coi verdi balconi e le rose attorno al cortile, dove eri sposa novella ed io sono nato, che un triste destino di notte ci aveva rubato, buttandoci in mezzo alla strada col carro di cenci. Finché un Dio provvidente un'altra ti diede, sia pure cadente, che tu franco a franco postavi. Ma presto partisti, che l'opera era appena iniziata. Adesso è finita, vedessi. Non serve andare alla fonte, c'è l'acqua corrente. C'è un quieto tepore d'inverno e le luce per tutte le stanze, che a notte si vede un ago per terra. Al posto del bagno di canne ce n'è di rosa ed azzurro, con l'acqua, volendo, anche calda. E il campo pare un giardino. Ho fatto perfino il camino e c'è legna a bizzeffe che brucia per sport, per vedere le fiamme. Aspetto che a un'ora di notte, o quando non passa nessuno, tu possa tornare a guardare almeno un poco, come una volta, dal portico vicino al soco. Bella. Dottore, vuole leggere una lei adesso? Come volete. Sì, sì. Queste qui sono tratte dalla sindrosi al mio paese. E ne leggo una un po' lunga. Bene. Che è tratta dal racconto Alla fine del tempo, dalla sillogia Alla fine del tempo. Adesso se la trovo. Beh, allora intanto che lei la cerca, io leggo Piccola eternità. Benissimo. Dopo che il tempo avrà spento volti, parole e la luce del sole, qualcosa di me resterà. Un muro, una casa, finché reggerà, un nome accennato ogni tanto, l'eco di un canto in contrada, una strada infossata tra siepi e alberi tronchi, la terra del corno e dei ronchi, quell'arco di cielo a orizzonte che cala sul monte e nell'aria sospesa, voci di chiesa, un suon di campana nell'ora che avanza, la fede dei padri, speranza. Resterà degli amori e di attese la piccola eternità di paese. Ecco, adesso a lei la parola. Mi leggo Se potessi non morirei. Se potessi non morirei. Perché sono impiantato dentro nel mondo anima e corpo. Amo la terra scura e fumante che il vomere volta all'alba nei campi, e la terra cretosa che vince l'arsura, la terra sabbiosa, la bruna senese, la dalmata rossa, la terra che in grembo riscalda sementi, insomma, la terra di tutti gli impasti, la terra madre di tutti i viventi. Bella. E l'umili erbe amo dei cigli, dei fossi nate da sé, quelle dei prati fioriti, e l'aria e la luce, l'ombra, l'acqua di Balbi e di fontanelle, il fuoco che scalda gli inverni, le brace degli scaldini che muoiono lente, amo i ricordi di tutto il passato, li amo e coltivo e ripongo, che niuno si sformi svanendo. Se potessi non morirei così presto, perché sono colmo di desideri. Vorrei visitare tutte le terre e ovunque fermarmi con calma fino a saziarmi di loro. Vorrei respirare tutte le aree e vedere le luci di tutti i tramonti. Mi fermerei dentro la tundra e la taiga, in paesi e città. Non ho visto niente o quasi, nemmeno dei posti che ho visto, perché ero di fretta. Ho appena assaggiato climi e orizzonti a brevi intervalli. Conservo soltanto tramonti a spunti lungo le coste dalmate, col sole sanguigno che cala nel mare. Ho scorso appena le strade festanti di Hong Kong senza fermarmi a gironzolare e magari a spiare dentro le porte senza girare intorno alle barche fino a capire magari un poco gli umani di Hong Kong. Non sono mai stato in Amazzonia a riempirmi di regni lussureggianti, a sentire di notte i versi e il mistero d'essere ignoti. Non so dei deserti la solitudine, non ho sguazzato in tiepide acque dei mari del sud. Non ho ancora guardato il sole morire incendiato dentro il deserto. E poi non ho ancora imparato opere somme di sommi. Montagne d'ingegno ho ignorato. Non mi sono saziato come di pane sfornato di versi e melodie. Sono ancora rapito da tutto. Godo perfino di un rivo tra le erbe di libellule blu. E se questo poi fosse un chiedere troppo, potrei restare nelle mie terre soltanto a guardare vicino alla porta di casa arrivare dal Garda i temporali, a rosolarmi di sole che niente mi stanca dei giorni, nemmeno il dolore che pur di campare e fino ad un punto sopporterei. Ripasserei perfino nei campi di sgarbe prima dell'alba a spigolare. Al gelo pungente resisterei e tornerei naturalmente a cantare Yukundare e tutti i canti cantati ricanterei. Se poi non potessi vedere e sentire quei sensi, mi basterebbe sognare e mandare la mente fino ai confini dell'universo e di là. Se per questo però dovessi morire, rinuncerei e resterei all'oscuro col ciaro a petrolio di sera. Non mi sono stancato di poesia. Non ho visto la storia e le mille storie della contrada dei millenni. Non ho visto e vissuto che poco, ma se altro ancora non si potesse, mi basterebbe restare al mio campo e intorno vedere ogni tanto i miei cari. Se potessi non morirei per vedere l'annetta contenta. Se potessi non morirei per vedere finire rivisti arrivati mafiosando. Se potessi non morirei per tornare i miei passi a raccogliere tempi sprecati. Se potessi non morirei per vivere l'ore con giovani in fiore e insieme esaurire in posture d'amore calici colmi d'ebbrezza. Se potessi volerei pei cieli fino alla luna e alle stelle per poi tornare a casa mia condotto da un raggio di luce. Se proprio potessi mai morirei, ma non potrò. E devo sperare che un Dio pietoso tutti rimpianti e contenti nell'aldilà. Bella, molto bella, molto molto. Antonio, leggi tu, dopo ascoltiamo la canzone. Diciamo che eventualmente sì, si può anche La strada del pane. Dopo la canzone eventualmente, no? Forse, ah. Sì, dopo la canzone sì, direi. Vabbè. Allora facciamo la seconda canzone in programma che è cantata da Mina, Ancora, ancora, ancora. Andare ti capisco, se mi lasci ti tradisco, sì, ma se dormo sul tuo petto di amarti io non smetto, no. Tu stupendo sei in amore, sensuale sul mio cuore, sì. Se poi strappo un tuo lamento, importanza è questo mio momento, perché io ti chiedo ancora il tuo corpo, ancora le tue braccia, ancora ti abbraccio. Di nuovo in studio e adesso leggeremo un po' di prosa. Allora l'autore leggerà che cosa? Leggo una specie di elogio della polenta. Benissimo. Devo premettere che la mia prosa è un po' particolare, nel senso che io la chiamo italo-veneta. È un po' la sintassi dialettale tradotta in italiano, nel senso che io metto in fila le parole italiane con lo stesso ordine della parlata dialettale e adopero le parole, il lessico è più vicino a quello dialettale, nel senso che adopero parole povere, parole mai difficili, mai particolari, semplicissime, sì, perché io ho in mente quando scrivo come direbbero in dialetto quella stessa cosa, allora la traduco in italiano tenendo quell'ordine, tenendo quella costruzione di frase che allora tutti capiscono, che allora tutti capiscono. Ed è un po' una caratteristica mia, nel senso che di questi argomenti, cioè della civiltà contadina in pratica, per dirla così con una frase che comprende tante cose, tante, esatto, hanno scritto in tanti, però con questo modo, con questa lingua particolare, nessuno. Questo è un picco di un'invenzione che è solo mia, che diciamo, che è questa lingua italo-veneta. Sì, la sua particolarità. Esatto. Bene. Allora, ormai le giornate si accorciavano da un pezzo e le pannocchie erano fatte, l'aria della sera portava giù il fumo dei camini. Gli uomini non avevano più tanto da fare e dopo cena facevano due passi con la giacchetta. Di buono c'erano l'uva e i fichi per mangiare una fetta di polenta. Presto si sarebbe cominciato a vendemmiare e a scartocciare. Per il pane si era fortunati per via del fegato, per il mangiare si era fortunati per via del fegato e del latticcio che mio papà portava a casa dal macello di Castelfranco, e ce n'era quasi tutti i giorni, oppure c'era formaggio o uovo. Tutto con la polenta, che si accompagnava con qualunque cosa. Non solo polenta abbrustolita coi fichi secchi, che era la sua morte, ma anche con la marmellata, con lo zucchero, perfino polenta e uva bacò o americana, polenta e peri, polenta e nespoli, per non dire della polenta e sardelle, o di polenta e formaggio verde, o di polenta e formaggio da polenta, cioè quello piccante, che erano mangiari da signori, e con una punta di formaggio si potevano far fuori diverse fette di polenta, perché il formaggio aveva un gusto che si sentiva anche se uno lo snisava appena coi denti. La polenta veramente se non ci fosse stata si sarebbe dovuto inventarla, perché era lei che riempiva il buco grande della fame, e se ne poteva mangiare tanta senza contare le fette, una più una meno, nessuno diceva niente, e una fetta erano belle sbocconate a bocca piena. Ma certamente il mangiare migliore del mondo era polenta e tocio. Quelle volte che mia mamma aveva i galletti pronti e prima di venderli ne ammassava uno o anche due, erano robe da sbregarsi. Finché il pollastro era morto e lo stava pelando e preparando, sembrava impossibile che fosse così buono. Ma poco dopo che lo aveva messo su, cominciava un profumo per tutta la casa che mi allontanavo perché il tempo passasse più in fretta, e quando tornavo scoperchiavo la teccia che bolliva lenta sulla carbonella e veniva fuori un'onda di profumo da andare indietro schiena. Se mancava tanto domandavo a mia mamma di assaggiare, ma lei si arrabbiava che non avevo pazienza e diceva che avevo appena mangiato una scodella di pane e latte e che il prete sarebbe stato intrigato a benedire. Si vede che la scodella era già andata sui calcagni, o forse era l'odore a farmi venire quella fame. Più che mangi e più diventi magro, diceva. Dove la metterai tutta quella roba? Poi sentite che ogni tanto sono delle parole dialettali, perché quando la parola dialettale non hai corrispondente italiano con la stessa efficacia, mantengo la parola dialettale. Esatto, un'efficacia superiore, evidenzia e enfatizza tutto il resto. Pessegar. In italiano si tradurrebbe affrettarsi, ma non ha la stessa forza. Non ha la stessa valenza. Anche foneticamente non ha la stessa forza. È più musicale spessegare. Esatto. Tu cosa leggi, Antonio? Dalla Contrada dei Ladri, quindi era in principio, quindi l'incipit, trasloco. Era in principio del 39 quando siamo venuti a stare nella Contrada dei Ladri, nella casa della Amia Marietta. Io avevo già compiuto 8 anni, andavo su per 9, mentre mia sorella Gabriella non ne aveva ancora uno. Prima eravamo accampati sotto un portico, nella Contrada dei Bovi, nella parte in su del paese, quella verso il Grappa, perché mio nonno aveva venduto la nostra casa e ci avevano dato lo sfratto. Mia mamma cercava di darsi coraggio e diceva che nella disgrazia eravamo anche fortunati ad avere trovato quel posto. Ma più di una volta mi ero accorto che aveva gli occhi rossi e, se le chiedevo, dava la colpa al fumo del fornello. Diceva che la Angea Bonasea, poeta, che era una sua amica, stava peggio perché l'avevano scaricata al consorzio agrario in uno stanzone dietro una specie di tenda con 3-4 tosatei piccoli. Diceva che certi finivano addirittura sotto i ponti. Prima o dopo una porta si sarebbe aperta anche per noi. Gran fato, diceva. Certo che ci era toccata granda. La nostra casa di prima era nuova, intorno aveva anche il suo orto e perfino le rose rampicanti. Mio nonno se l'era costruita commerciando coi vitelli, ma dopo che era rimasto vedovo aveva preso una brutta strada e in poco tempo si era mangiato tutto. Così eravamo finiti sotto quella specie di portico. La stava pagando cara anche lui, perché adesso andava a carità e non si sapeva dove dormiva. Si era dunque là, in quello stato, da 2 anni circa, quando una mattina era capitato il barba Toni Mosca a dirci che sua sorella Marietta, sorella anche di mio nonno Milio, siccome era rimasta vedova e senza figli, ci avrebbe preso in casa. Per una compagnia, aveva detto il barba, e per un aiuto, perché aveva una branca di terra ed era vecchia. A mia mamma non le pareva vero e aveva accettato subito, che sul momento le era venuto quasi da piangere dalla contentezza. Ma mio papà, che a quell'ora non era in casa, quando l'aveva saputo, non era per niente entusiasta. E a mia mamma le aveva fatto venire tutti i dubbi, dicendo che la Amia era una perla di quelle. Lui la conosceva. Apposta la chiamavano Marietta Rumega, perché trovava da radegare Rumega, perché trovava da radegare con chiunque. Alla fine, comunque, mia mamma disse che peggio di così non poteva andare e che bisognava accettare a tutti i costi. Così, una mattina buon'ora, con lo scuro, avevamo caricato su un carro le nostre 4 robe ed eravamo partiti verso la casa della Amia, nella parte bassa del paese. Appena arrivati, mia mamma mi aveva messo in braccio la sorellina tutta infagottata, dicendomi di andare in stalla, intanto che loro scaricavano. E una breve descrizione della Amia. La Amia. In stalla c'era anche la Amia con una forca. Stava smissiando la paglia della vacca. Non ci guardò neanche e dopo un poco andò fuori. Era bassa, grossiera, con la testa piccola e il viso rugoso. Per capelli aveva 4 spenotti bianchicci ingrumati dietro in un cocconeo. La stalla era scura, l'unico balconetto aveva i vetri umidi e sporchi, con le scarpie. Sì. E poi c'era la vacca, ecco, la si vacca. Si capisce che non erano. Esatto, non era... La vacca merita di essere raccontata. La vacca era buttata giù e menava la bocca con un rumore di grum, grum. A scuola la maestra ci aveva spiegato che i bovini, come le vacche, avevano 3 stomachi e per questo il mangiare dovevano masticarlo 3 volte. Quella dell'Amia ogni tanto si fermava dal masticare, restava un poco con la bocca chiusa, poi ruttava e ricominciava. Mia sorella intanto aveva preso sonno e io continuavo a guardare la vacca. Muoveva la bocca in modo strano, la sbesso e andava giù e tornando su si spostava in parte chiudendosi col sopra in sbiego, sicché i denti si incrociavano strisciando, forse per frantumare meglio la roba. Era una vacca balzana. Dopo un poco mia mamma venne a prendersi mia sorella e io le andai dietro per curiosare. Allora facciamo la canzone o leggo la poesia del papà come avevo annunciato prima? Ma anche direi, anche come vuoi, sì. Possiamo. Allora, prima abbiamo letto Lettera alla madre, adesso leggiamo una poesia dedicata al padre. Quando una notte di novembre mancasti, padre, la terra per me fu molto più vuota. Eppure tra noi non furono mai parole vere, ma solo i tuoi comandi scagliati alla mia gioventù e silenzi diraforieri. Anche l'adulto rincontro fu muto, fuor di parole leggere. Ora il tuo volto ricordato, lo sguardo insostenuto, mi rivelano sfide, taglienti come il tuo profilo, al destino, al mistero, alla morte. Forse in inconscio speravo vincessi, ed eri pur sempre mio padre. Chissà se potremo di nuovo incontrarci, ove sostare e infine davvero parlare, anche per dirti che sei sempre mio padre. Ecco, adesso... Sì, perché con mio padre non ho avuto... Un gran rapporto. Lui era molto intelligente e frustrato dal mancato studio, perché avrebbe voluto studiare. Sottoscrivo. Invece ha dovuto fare un lavoro che non gli piaceva. Sì. E quindi anche in casa... Frustrazione, è sempre silenzi. Un rapporto problematico. Il classico maschio di casa. Dopo vi leggo qualcosa di mia mamma. Benissimo, ok. Allora, adesso ci ascoltiamo la terza canzone, che è una canzone subito dopo la guerra, insomma, era molto, molto famosa, e così la dedichiamo al nostro ospite. Sì. Io t'ho incontrata a Napoli, cantata però da un cantante più moderno, insomma, da Massimo Ranieri. Io t'ho incontrata a Napoli, bimba dagli occhioni blu, e t'ho promesso a Napoli di non lasciarmi più. Ti dissi partirò domani, ma ritornerò perché il cuore mio seppur per sempre l'hai legato a te. A Napoli, paese di canti e fiori, la musica ricorda i tuoi baci d'amore. Ci sposeremo a Napoli perché la mia felicità io l'ho incontrata a Napoli. Dissi partirò domani, ma ritornerò perché il cuore mio, seppur lontano, per sempre l'hai legato a te. Io l'ho incontrata a Napoli. Eccoci di nuovo in studio. Se la ricorda questa canzone? Sì. Sì, vero? Come? Dopo la guerra, almeno. Sì. Penso che la cantassero parecchio. E le do la parola. Io leggerei qualche poesia su mia mamma. Ne benissimo. Ho, ne ho due o tre qui sotto mano. Sì, sì, prego. Una breve. Mia mamma non somiglia alla Madonna Celestina del mio paese, pallida e ferma nella nicchia d'altare. Mia mamma è la terra di tutte le messi, il trionfo dei fiori di ogni stagione, il sole che brilla e ancora di più. Mia mamma somiglia alla Madonna vera ed è con lei nell'eterno. Difatti, nella prefazione del professor De Mattei, dice proprio che per lei la mamma era la Madonna. Sì. Cioè che la Madonna o comunque era vicino a lei, insomma. Sì, diciamo. Sì, sì. Ti bastava, mamma, per darti coraggio una cioppa di pane sudato sui campi o cucendo in notturne veglie col lume a petrolio. Se no, una fassina di legni o di spighe, la promessa dei uova da 5 galline, una sporta di rosoline. E nelle stasi d'estivi merigi, vicino alle vite di uva bacò, o nelle sere invernali aggiustavi i brandelli di noi in un quieto parlare dei giorni a venire e del Dio provvidente che aiuta a sperare. Belle. Mia mamma si chiamava anche Pasqua, il secondo nome suo era Pasqua, ah, Pasqua Maria. Pasqua Maria. La gioia aveva il tuo volto, mamma, il respiro. Con te era piena di vero la terra dove passavi, con te il sentimento riempiva le povere stanze, il cortile. Di attesa la vita riempiva la voce tua calda che i giorni distenti cambiava nel gusto di stare tra noi e sperare. Che al primo spuntare dell'alba le ore seguiva gli eventi svolgendo la voce preghiera al partire del padre che a sera sereno tornasse. Nessuna voce ascoltata al mondo nei giorni sepolti, così nel profondo ha solcato anima e mente. Belle. Io vorrei leggere Non è più tempo. Non è più tempo di beati silenzi dentro i gran turchi a spiare vori furtivi. Non è più tempo di piccoli averi, di glorie d'un giorno, di sterili minuzie. L'odiata potrebbe arrivare improvvisa. È venuta l'ora di pensare ai novissimi e di porsi di fronte all'Eterno, sperando che parli. Tu, Antonio? Io vorrei leggere sempre dalla Contrada dei Ladri, A Messa Prima. Sì. A Messa Prima, che è una cosa che ho vissuto anche personalmente. Certo che nessuno dei tusi della Iseta aveva la mia penitenza di svegliarsi buon'ora per andare a Messa Prima. Ogni santa mattina, anche d'inverno, dovevo venire su che era ancora scuro e andare a Messa Prima a cantare gli uffici da morto. Quando mia mamma mi chiamava, non so cosa avrei pagato per restare in letto. Cominciava l'Ave Maria, sentivo Italo! Sottovoce per non svegliare mio papà. Io muto. Dopo un poco. Italo, suonano l'ultimo. Silenzio. Suonano la campanella. Se a quel punto non avevo ancora dato segni di vita, capitava là, mi alzava le coperte, mi tirava giù le gambe di peso e cominciava a vestirmi, intanto che mi diceva su, ma piano, senza bravarmi più di tanto. Dopo vestito, se vedeva che non stavo ancora bene in piedi e che continuavo a pesar peri, prendeva una pezzetta bagnata e me la passava sul viso. Quello era come prendere una scossa. Lei diceva sempre che col tempo mi sarei abituato e che dopo non ci avrei più fatto caso. Invece il tempo passava, ma il sonno non voleva desfantarsi. Anche per strada mi sarei buttato giù da qualche parte a dormire, magari dentro un fossetto secco o dentro una siesa. Immaginarsi una volta che ero arrivato in chiesa che voglia che avevo di cantare. Però dovevo. E appena il prete veniva fuori dalla sacrestia bisognava cominciare col «Dirige Domine Deus Meus» e avanti con tutto il resto. Per fortuna Cisieto Caon, che era stato scelto con me per cantare gli uffici, era sempre sveglio come un campanello. Così non si sentiva tanto che io le prime strofe le sborbottavo su perché ero ancora tutto immatonio. Poi man mano mi inviavo, ma il principio mi sarei buttato giù sul banco a dormire. Ogni mattina era quella solfa. Si può dire che tutto l'ufficio della messa prima lo cantavo insonnato, dandomi uno sgorlone ogni tanto perché la testa non pendolasse. Solo alla messa seconda mi godevo a cantare, specie se ero da solo. Cisieto, infatti, spesso andava via perché aveva terra e doveva andare ai campi buon'ora. Alla messa seconda, se per esempio c'era un ufficio solenne che si doveva cantare sia prima che durante la messa, cantavo di gusto, soprattutto se in chiesa c'era una. Avevo caro che lei mi sentisse quanto bravo ero. Più di tutto mi piaceva il Domine Jesu Christe, ci mettevo proprio sentimento. Che ogni tanto qualche femmina, incontrando mia mamma, le diceva: Maria Vergine Maria, che ose gavarai o che il toso? Cantare era proprio la più bella cosa al mondo, insieme a correre. Quelle volte ero contento anche perché prendevo il doppio di paga. Il parroco, infatti, metteva a disposizione un tanto per ufficio. Se si era in due si spartiva, se no prendeva tutto uno. Quindi ero contento due volte. Per un ufficio semplice si guadagnava 5 centesimi, mentre per uno solenne 10. Naturalmente, se ero solo, prendevo 10 e 20. Comunque, alla fine della settimana, quando Ernesto Sacrestano ci dava la paga, saltavano fuori dei bei soldi. Come minimo erano sempre quei 45-50 centesimi. Non era un granché, diceva mia mamma, ma erano una goccia anche quelli che aiutavano a tirare avanti. Beh, che belli. Bene, allora ci ascoltiamo un'altra canzone. Sì. Cosa ci ascoltiamo, Antonio? Ci ascoltiamo Anche se di Ornella Vanoni. Anche se sei stato di un'altra, se le hai detto le stesse parole che tu dici a me ogni giorno, ogni giorno, ogni notte, anche se sei stato di un'altra. Se hai tremato alle sue carezze, come tremi oggi alle mie, ogni giorno, ogni notte. Ma io non voglio chiederti niente, non voglio più sapere niente. Bisogno di amarti per vivere, ho bisogno ogni giorno di te. Anche se sei stato di un'altra, ho bisogno lo stesso di te e non mi importa di sapere altro, la vita non ha ieri ed io domani è già qui. Anche se sei stato di un'altra, ho bisogno lo stesso di te e non mi importa di sapere altro, la vita non ha ieri ed il domani è già qui. Eccoci di nuovo in studio. Allora, prima di darvi la parola, che così lei, dottore, legge qualcosa di amore o di che cosa questa volta? Leggo l'attesa e il momento in cui sono andato a vedere il risultato dell'esame del terzo liceo. Ma io volevo farle due o tre domande prima, se possibile. Prego. Adesso, sì, logicamente è in pensione, e che cosa fa di bello? Quali sono i suoi interessi? Ho due lavori in corso. Cioè? Uno è la cronaca della stanza vendita di cultura e critica, sì, che doveva fare De Matè, che dovevo farla insieme con lui, sì. Adesso De Matè si è preso questa vacanza, si vede, e ho dovuto farla io, l'ho quasi ultimata, quindi faccio la cronaca. Abbiamo fatto con la stanza vendita di cultura e critica 40 eventi, 40 incontri con personalità importanti, con argomenti importanti. Abbiamo parlato per esempio della lettera, dell'enciclica, della lettera di Paolo VI agli artisti. Abbiamo restaurato parte degli affreschi di Tommaso da Modena nella sala del capitolo del seminario di Treviso. Abbiamo fatto una riunione sul canto gregoriano. Abbiamo fatto un sacco di cose importanti, delle quali non resta niente se uno non fa la cronaca e non manda un libro in biblioteca, in modo che la gente domani possa consultare una traccia di quello che si è fatto. Allora l'ho fatta, l'ho ultimata. E poi sto facendo, e l'ho ultimato quasi anche quello, la storia di un partigiano. Un partigiano famosissimo che si chiamava Masaccio, con nome di battaglia Masaccio, che sì, è il primo Visentin di Poggiana, di Riese, del mio paese, del quale c'è il monumento all'ingresso dell'Università di Padova, un monumento a Masaccio, fatto da Arturo Martini. È un partigiano di cui hanno scritto tanti, che però per accidente e per fortuna sono venuto a conoscenza di un suo amico, che è ancora vivo, che ha 89 anni. Penso. E quindi io racconto quel personaggio non per le vicende belliche di cui hanno parlato tanti, lo racconto prima, da quando è nato, racconto l'uomo vicenda umana. Perfetto. Ecco. Bene. Perché era un genio, era una persona straordinaria, di doti straordinarie. Però. L'ho sentito nominare io, sì. Allora, lei legge. Vi leggo, se volete, sì, quella del terzo liceo. Certo. Sì, prego. Adesso c'era da aspettare col cuore sospeso. In quei giorni, ma anche prima, da un po' di tempo in qua, dormivo poco, mi svegliavo all'Ave Maria e con una specie di ansia dentro lo stomaco. Mi sforzavo di non pensare, lavoravo, facevo anche le pulizie di casa, oltre ai soliti erba, legni, eccetera. Cercavo compagnia, andavo al campo sportivo sperando di trovare qualcuno per fare dei tiri in porta col pallone, e se trovavo, magari dopo poco lasciavo tutti impiantati e andavo via per stare da solo. Non avevo requie, quel pensiero era più forte di tutte le distrazioni. e mi martellava che sentivo il sangue battermi in testa, tum, tum. Perché dovete sapere che una volta gli esami terzo al liceo erano tremendi, si portava tutte le materie agli esami. Due o tre giorni dopo dovetti per forza prendere la bicicletta e andare a Bassano a vedere se avevo messo fuori l'esito, se avevano messo fuori l'esito. L'uomo bidello mi disse di no. Domani, disse, è sicuro? Sì, sì, rispose. Da allora le ore furono le più lunghe che avessi mai passato, non veniva mai sera e anche il giorno dopo il tempo pareva fermo. Avevo deciso di andare tardi per non trovare altri. Quelli di Bassano e dei paesi intorno andavano sicuramente presto. Sarei partito dopo mangiato sperando di non incontrare nessuno, volevo essere da solo. Se era male non avrei voluto vedere neanche un cane e avrei affrontato da me tutta la disperazione. Non pensavo, non volevo pensare. Per la strada andavo avanti non so come. Guardavo tutto e niente, non sentivo né il caldo né i rumori. Ogni tanto dovevo tirare il fiato lungo. Traversai Bassano vedendo confuso. C'era una luce fastidiosa. Il camerone dell'atrio della scuola era vuoto e scuro. Le bacheche erano in fondo con un po' di luce biancastra. Andai avanti senza fiato. Subito non vidi niente, come se avessi un mancamento. Dopo qualche secondo, trovai il mio nome. Avanti, avanti, persi la riga. Ripetei, avanti, avanti, promosso. Respirai forte, ripetei ancora, promosso. Provai non so quante volte, scorrevo i voti piano, andavo fino in fondo e poi, se mi pareva di aver deviato, riprendevo da capo e tornavo a leggere sempre, promosso. Restai là tanto, facevo la lettura non so perché, rifacevo la lettura non so perché. Dopo un bel po' guardai anche gli altri, Pino promosso naturalmente, ero contento che per lui era mio amico. Parecchi avevano voti più alti dei miei, altri pressappoco uguali. Non avevo nessuna invidia, mi interessava solo la parola finale. In italiano i voti erano bassi come i miei per quasi tutti, anche per i sapientini. Guardavo così come per giocare. Poi cominciai a guardare in giro, certi particolari non li avevo mai visti, le tempie non mi battevano più e il fiato mi scorreva leggero come per una strada larga. Bello, bello. Dovete sapere cosa c'era dietro questa ansia. Che cosa? C'erano dietro anni di tribolazione perché io rifacevo la strada da Loria a Bassano in bicicletta, 14 km ogni giorno, estate e inverno. Ed è stato per me il liceo tre anni di tribolazioni, perché il liceo l'ho fatto male, devo dirlo. In ginnasio ero il primo della classe, in liceo ero tra gli ultimi e quindi avevo il dubbio di essere promosso. Sì, sì, aveva paura. Fortuna me la sono cavata, si vede che hanno avuto compassione anche avendomi vestito com'era. Occorre capire quali sono le circostanze naturalmente. Cioè, avevo avuto il periodo dell'adolescenza in cui si è un po' sconcertati, si è strani, ecco. Assolutamente non vedevo sbocchi, non vedevo occasioni di lavoro alla fine, io avevo voglia di lavorare subito, tanti andavano in America, io avrei voluto partire. Invece dovevo studiare, ormai mia mamma mi diceva quando si comincia una cosa si deve andare fino in fondo. Ecco, giusto? Gli insegnamenti giusto? Della madre sono una cosa straordinaria. E io vorrei ricollegarmi a questo, nel senso di ritornare invece molto all'indietro negli anni, con La strada del pane, dalla Siloge al mio paese. Restano pochi a ricordare l'urlo della trebbia che inghiottiva le faie lanciate dalla mea nella calura di luglio, le trepide mani alle bocchette, gli uomini nella polvere di paglia e paioe, le bocche bendate agli spigazzi. Pochi ricordano ancora i canti delle donne scartoccianti nelle notti d'autunno, le voci sferzanti dei contadini aranti, grondare con zappa e falcino, l'ansioso scrutare il cammino dei temporali, i tridui, la fulgure e tempestate di prima mattina nella guazza del crearo, l'amaro odor di frandina, il te deum del 31 dicembre per essere vivi. Restano pochi a ricordare la lunga strada del pane quando c'era. Bella. Io leggo invece: non scorderò un mattino di sole nella strada che porta al Monte Grappa. Nell'aria tersa, gocce di luce coprivano il paese di baluginante veluria smeraldina. e l'allegro brillio della guazza i campi rivestiva e risorgiva. La terra pareva nuova, fiammante, uscita da poco dal genio di Dio. Sempre se volete, evocativi. Sempre. Se volete ve ne leggo un altro. Sì, prego. Benissimo. Prego. Questo qui è intitolato a sé. Il senso è questo: se uno è stato in mezzo ai campi in gioventù, rimane attaccato alla terra, ha un amore particolare per quel paesaggio, per, quel, certo. per quei posti, per quell'habitat. Se lungo i filari di viti a febbraio hai posato branchette di legni rasparee, se in mezzo alle siepi di spine succhiando un camera di stecco, pampini e more cagnine, hai fatto fascine di rame seccate e brancae di sbroiglia, se un largo di quel buon orivo gamba per gamba hai schiarito buttandoti in schiena ogni tanto a destirarti, se steli di grano falciato i piedi e le mani han segnato e tracce di sangue hai lasciato in terra di sgarbe, se dentro un soturco d'agosto graffiando vanedi hai immucchiato sacchi di erba rapegarue, se i campi nell'alba ti han fatto carezze di guazza, se a sera disteso nell'ombra hai spiato richiami di quaglie e volare di nuvole e finchi, se insieme ad anime amiche in caldi meriggi estivi all'ombra di noci incortivi, seduto in un quieto parlare hai guardato le fronde stormire e il passare di voli furtivi fin tardi, un poco per sempre anche tu sei terra ed erba di campo e fronde e nuvole e voli. Molto bella. Molto suggestivo. Ci sono tante parole dialettali che certo, andrebbero spiegate, sì, ma sì. penso che sì, i nostri ascoltatori purtroppo un po' capiranno. Sì, oltre naturalmente ad avere. Io, non essendo trevigiana, tante parole non le capisco. Ma dovrei spiegarle. Sì, diciamo che sono, come dire, sono per delle... molti giovani, io credo, giovani e meno giovani, sono una riscoperta. Sì. Riscoperta di un lessico e di una lingua essenziale. E che ha, come diceva lei prima, notevoli agganci a un'epoca che non esiste più e che quindi non si può, però vanno naturalmente tenuti, vanno contestualizzati, vanno spiegati. Il tempo purtroppo è quello che quello non appunto, si ha, ma non si ha il tempo abitualmente nemmeno per rientrare nella mentalità del tempo, perché occorrerebbe calarsi in un'epoca che è stata quella, come dire, propedeutica al boom economico, certo, che ha favorito il boom economico negli anni 40 e 50. Esattamente, sì. Periodi in cui eravamo senza niente ed è stata costruita una nazione. Certo. Oggi abbiamo naturalmente abbiamo tutto, tutto e stiamo andando a remengo, diciamo, ecco. E allora questo dovrebbe imporci e indurci a qualche riflessione fondamentale, diciamo. Vorrei sapere il suo parere anche in materia. Vi leggo una per il padre. Esatto, sempre che sia breve naturalmente. Sì, anche è brevissima. Benissimo, perfetto. Ora so, padre, perché compravi il giornale magari con l'ultimo franco e poi nel cortile ai meriggi estivi solo restavi. Cercavi parole e volti nuovi e so perché giocavi le carte e bevevi il vino, non tanto. Così spendevi il talento dell'arte negata, fuggivi il destino. Una madre anzitempo rapita, un padre lontano, paesi remoti, 12.000 segnati, l'arcano d'amore dei cieli, mute l'attese alle porte di chiese. So perché guardavi nel fondo indistinto e niente del mondo pareva importante. Un'onda invadeva l'anima tua smarrita, dentro i misteri della vita. Ora so, padre, quell'onda di malia pure il mio cuore invade e l'anima mia. Ecco, su questo io direi una sola frase: non giudicare se non vuoi essere giudicato. Molti giudicano, tanti giudicano ma se sapessimo, se conoscessimo le storie che stanno dietro a tutto quanto, non possiamo giudicare e non possiamo condannare. Ma tanto volte viene spontaneo. Ho un grande ricordo di mio papà, nonostante non abbia avuto un buonissimo rapporto. Non è che non abbia avuto un cattivo rapporto nemmeno. Non ho avuto rapporti perché lui non era disponibile, aveva problemi suoi. Esatto, occorre immedesimarsi. Però per le difficoltà, ho un affetto straordinario verso di lui, lo ricordo sempre. Benissimo. Siamo arrivati alla conclusione, ecco. Abbiamo sempre timore di non farcela, di non riempire il tutto. Vedo che riempiamo e anche ce ne avanza. Tempus fugit, come dicevano purtroppo, sì, avremo tante cose ancora da dire. Esatto, dobbiamo comunque naturalmente terminare ringraziando. Dando appuntamento, esatto, ringraziamo il nostro ospite e diamo appuntamento alla prossima volta. Ringrazio voi e buonanotte. E ci promette di tornare, vero? E se volete ritorno. Benissimo, certamente. Salutiamo il nostro regista e a tutti buonanotte, ciao. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre.